Voglio infatti informarvi quale dura lotta appronto per voi e per quelli di Laodicea e per quanti non mi hanno visto di persona, affinché i loro cuori siano confortati, uniti strettamente nell'amore e protesi verso una ricca e perfetta intelligenza, verso una profonda conoscenza del mistero di Dio, Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e conoscenza. Dico questo affinché nessuno vi seduca con argomenti speciosi. Se infatti con il corpo sono lontano, con lo spirito sono con voi e vedo con gioia la vostra disciplina e la vostra saldezza nella fede per Cristo. Come dunque avete ricevuto il Cristo Gesù, il Signore, in Lui continuate a vivere, radicati e sopraelevati su di Lui e consolidati nella fede come siete stati istruiti, abbondando in ringraziamenti. Badate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, questo fatuo inganno che si ispira alle tradizioni umane, agli elementi del mondo e non a Cristo, poiché è in Lui che dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi siete stati riempiti in Lui, che è il capo di ogni principio e potenza. In Lui inoltre siete stati circoncisi di una circoncisione non operata dall'uomo, ma nella spogliazione del corpo carnale, nella circoncisione del Cristo. Sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete stati anche risuscitati in virtù della fede nella potenza di Dio che lo ha ridestato da morte. Proprio voi che eravate morti per le trasgressioni e la incirconcisione della vostra carne, Dio ha richiamato in vita con Lui, condonandoci tutti i falli e annullando le nostre obbligazioni dalle clausole a noi svantaggiose, le ha soppresse inchiodandole alla croce. Egli, spogliati i principi e le potenze, ne fece pubblico spettacolo dopo aver trionfato su di loro per suo tramite. Pertanto nessuno vi recrimini per cibi, bevande o in materia di festa annuale o di novilunio o di settimane, che sono ombra delle cose a venire, mentre la realtà è il corpo del Cristo. Nessuno arbitrariamente vi defraudi, compiacendosi in pratiche di poco conto e nel culto degli angeli, indagando su ciò che ha visto, scioccamente inorgoglito dalla sua mentalità carnale e staccato dal capo, dal quale tutto il corpo, ricevendo nutrimento e coesione attraverso le giunture e i legamenti, realizza la crescita di Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi sottomettete a prescrizioni quali non prendere, non gustare, non toccare? Sono tutte cose destinate a logorarsi con l'uso, essendo precetti ed insegnamenti umani. Hanno reputazione di saggezza a motivo della loro affettata religiosità, umiltà e austerità verso il corpo, ma sono prive di ogni valore, perché saziano la carne.